Il terzo anello, ad alta voce. Francesco Siciliano legge Con gli occhi chiusi, di Federigo Tozzi. A scuola Pietro motteggiava i più vicini di banco con la sua ilarità nervosa. Li costringeva a dargli retta. Li chiamava con soprannomi faceti. Li offendeva se non gli davano retta. E anche quando tutti tacevano, nemmeno udiva la voce dell'insegnante, quantunque qualche risposta dei compagni gli arrivasse agli orecchi con un rammarico strano. Stava per prendere la licenza elementare ed era il più grande e il meno bravo, e i seminaristi lo canzonavano. Qualche volta, dopo aver cercato di comprendere, si sforzava di badare a tutta la lezione rimanente e sentiva quasi gusto ad aumentare la disistima di tutti, benché se ne compiangesse. Quando era stato attento, usciva con la mente quasi stravolta, con un peso dentro le tempie, incapace di mettersi a studiare, stanco, sfinito. Senza aver fatto nulla, lasciava un libro e ne prendeva un altro. Lasciava anche questo e non leggeva. Non s'accorgeva nemmeno più d'averli dinanzi. Allora si divertiva al movimento e al vocio della trattoria. Del resto avrebbe dovuto imparare le sue lezioni e scrivere dinanzi agli avventori meno ricchi che desinavano una tavola lunga sopra alla quale ciascuno di loro distendeva un piccolo tovagliolo. Lungo i solchi delle piegature si raccoglievano le briciole del pane e Pietro le mangiava a pizzichi. Questi avventori, divenuti amici di Domenico e di Anna, lo facevano ridere con le loro burlette, dicendogli «Che vuoi affaticarti con gli occhi? Vai a ruzzare!» Ma Anna si alzava dalla sua poltrona posta nell'angolo più oscuro della stanza, dietro un paravento di legno con un'apertura rotonda da cui poteva sorvegliare i camerieri e la cantiniera, per dire «Lo lascino stare!» Poi rideva anche lei. D'estate, quando tirava un poco di vento, si vedeva uscire dalla finestra aperta tutto il fumo delle pipe e dei sigari, e allora gli avventori si toglievano la giubba, mentre l'inverno si passavano uno scaldino. Burlavano tra loro, portandosi via il pane e la frutta. Quando qualcuno bestemmiava troppo, Anna impallidiva e lo guardava in faccia. Egli rimaneva con la parola in bocca e tutti gli altri tacevano. E la conversazione era cambiata. «La bestemmia non sta bene. Avete tempo fuori di qui, per la strada!» Egli arrossiva. «Ieri il rimprovero non toccò a me, non è vero, padrona?» Era una risata spontanea, ed Anna pensava subito ad un'altra cosa. Allora qualcuno proponeva «Venga a darci da bere, ma non di quello anacquato, non ci castighi!» Chi aveva ancora un poco di vino vuotava il bicchiere riposandolo con gli altri nel mezzo della tavola. Anna, fattosi portare un fiasco, domandava «Quanto ne vuole lei? Un soldo? Io due soldi!» Adamo metteva il bicchiere contro l'aria. «È piovuto in cantina anche oggi!» E quando passava un avventore dalle altre sale, si chetavano alla meglio e lo seguivano con lo sguardo. «È il tale!» Qualche volta cantavano. Ma Domenico usciva dalla cucina tenendo un ramaiolo di brodo. Tutti alzavano le mani. «Fermo, fermo, ce ne andiamo!» Gli alterchi erano radi e quando avvenivano l'amicizia era rotta per poco tempo. Di solito non si insultavano direttamente, ma una alla volta, a vicenda, si rivolgevano agli altri esponendo la cosa come un racconto. Dapprima a bassa voce, poi con veemenza e con bestemmie, battendo i pugni, alzandosi da sedere. Quasi le mani dei contendenti si toccavano. Allora qualcuno diceva «È vergogna, anche per chi ci sente!» Anna non si teneva più. E la sfilata delle bestemmie era interrotta finalmente da un grosso boccone inghiottito. Adamo, con piccole nervosità da femmina avvezzata male, quando diceva a Domenico che lo servisse bene, quasi si raccomandava. Dopo averlo guardato in viso, si volgeva da una parte, aspettando sempre con la paura che parlassero male di lui in cucina. Poi, assaggiata due o tre volte la pietanza, s'era a modo suo, respirava meglio, sputacchiava e si decideva a mangiare. E tornatagli la gaiezza, Era primo lui a svegliare Giacomino mettendogli una buccia di mela nel collo. Anziano, basso e corpulento, con i baffi sempre in bocca, cambiava d'umore come un ragazzo. Anzi, chiedeva scusa dell'inurbanità del momento prima, battendo insieme le dita sopra il tovagliolo, tamburellandole con la testa in avanti e bassa. Si stropicciava le guance con il dorso della mano, silenzioso, con il sigaro in bocca, biascicandolo e facendolo girare tra le labbra. Era capace di mettersi ad ascoltare una lunga conversazione fatta nella stanza accanto, e se per caso gli avessero risposto, si faceva pensoso, fumando boccate più lunghe. Giacomino, anche mangiando, appoggiava la testa alla mano, tirandosi con le dita i capelli vicino alla nuca. Bibe metteva il mento sopra il pugno chiuso, in proda alla tavola, e stava così con gli occhi giù, divertendosi ad ascoltare, senza veder nessuno. E allora alzava una per volta e piano le punte dei piedi, battendole in tempo, finché qualcuno, presolo per i capelli ricciuti, non gli facesse volgere la testa. «Dio, mi fate male! Che divertimento c'è?» «Hai sonno, bestia?» «Poco, no!» E raccontava perché non aveva avuto il tempo di dormire abbastanza e sorrideva tra il sonno. Volevano sempre gli stessi posti. Adamo in un angolo, perché così sputava a piacere, Giacomino sotto la finestra, Bibe, il più giovane, sul canapè, perché ci si tirava indietro a modo suo, magari addormentandocisi quando non gli davano fastidio. Si riabbottonavano i calzoni, si riagganciavano gli scheggiali, sputavano, s'urtavano, si scapaccionavano, si tiravano i baffi e pagavano il conto andando a uno per volta dinanzi al bugigattolo di Anna. E Pino? Pino, il vecchio barracciaio di Poggi Bonzi, era il più povero. Gridava per ridere: «C'è posto anche per me!» Tutti glielo facevano. Non per cortesia, ma perché lo credevano pieno di pulci. Egli se ne avvedeva, ma non osava dir niente. Brontolava un poco tra sé, siccome dovunque era trattato così, non se la prendeva. «Mezzo posto mi basta a me. Non sono un signore io. Ah, ma come mi dolgono le ossa!» Un occhio non gli voleva stare aperto, e le palpebre battevano insieme come fanno quelle delle civette. Girava quell'altro occhio per tutta la stanza lentamente, ricominciando sempre da capo. Si guardava bene le mani per far capire agli altri che aveva pensato a lavarsele, infatti se le era lavate nel secchio del suo cavallo, mezzo stronco, come le stanghine del barroccio, rinforzate con parecchie avvolte di funicella e di filo di ferro. Quanto tempo gli faceva perdere quel lavoro riaccomodato tutti i giorni. Si stropicciava gli occhi con un dito, con il viso ridente senza sapere perché. La sua bocca, con quel suo sorriso, pareva larga il doppio. «Ridete voi, boia! Che avete rubato oggi? Si piglia la roba delle commissioni e poi dice che l'ha persa per la strada. Io? Oh, poverino! Una volta lo facevo così, ma ora no!» Strascicava la voce con un accento che sembrava sincero, benché malizioso. «Ho due figliole a casa da maritare, son belle davvero, a dirvela in un orecchio. Ma la mia moglie è già ridotta come una balla di cenci unti che non si piglierebbero nemmeno in mano. C'ho quelle due figliole, povere bambine, e che devo fare io per loro?» D'inverno, quando era tutto infreddolito e bagnato con il bavero della giubba fino alla cima degli orecchi, con il cappello sugli occhi, Pietro gli si faceva subito incontro e, senza parlargli, gli metteva il viso tanto vicino che Domenico lo tirava indietro per il collo. Morì presto e nessuno se ne accorse. Un altro anno, e s'era la fine di marzo, il giorno di San Giuseppe. Da Poggio a Meli si udivano gli scampanii che si rimescolavano alla rinfusa nel cielo come un suono che crescesse sempre, quasi immobile, con una romba greve. E a Pietro era venuta un'allegria insolita, un'allegria simile a un benessere troppo forte, che lo faceva più nervoso. Pietro non era ancora calmo Quando scorse Ghisola, era divenuta una giovinetta. I suoi occhi neri sembravano due olive che si riconoscono subito nella rama, perché sono le più belle. Quasi magra. Aveva le labbra sottili. Egli si sentì esaltare e la camminava adagio, smuovendo un poco la testa. I cui capelli nerissimi, lisciati con l'olio, erano pettinati in modo diverso da tutte le altre volte. Cercò di smettere il suo sorriso, abbassando il volto, ma rallentò il passo come se fosse indecisa a voler dissimulare qualche segreto. Egli ne ebbe un dispiacere vivo e le mosse incontro, come quando erano più ragazzi, per farle un dispetto oppure per raccontarle qualche cosa con la voglia d'offenderla. Come s'era imbellita da che non l'aveva più veduta. Notò con gelosia un nastro rosso tra i suoi capelli, le scarpe lustre di sugna e un vestito bigio quasi nuovo, e fece un sospiro. Ma ella, così risentita che non gli parve nemmeno possibile, gli gridò: «Vada via, c'è suo padre, non s'avvicini!» Egli invece continuò ad andarle incontro, ma ella fece una giravolta rasentandolo senza farsi toccare. Pietro non le disse più niente, non la guardò nemmeno, era già offeso e mortificato. Perché si comportava così? Sarebbe andato a trovarla anche in casa, dove ella entrò soffermandosi prima con un piede sullo scalone. Si struggeva. Era assillato da una cosa che non comprendeva. Aveva voglia di imporlesi. Ma a poco si sentì rappacificato e lieto d'un'altra volta, come se non le dovesse rimproverare nulla, mentre un sentimento delizioso gli si affermava sempre di più. Ghisola riuscì presto di casa. S'era tolto il nastro. Aveva cambiato le scarpe, mettendosi un grembiule rosso sbiadito. Alzò gli occhi verso Pietro, seria e muta, ed entrò in capanna dimenandosi tutta. Pose dentro una cesta il fieno già falciato dal nonno, poi smise per levarsi una svelza da un dito. Egli si sentì uguale a quella mano, e il silenzio di lei, inspiegabile, lo imbarazzò e non sarebbe stato capace di parlarle per primo. Perciò le dette una spinta, ma lieve, ed ella, fingendo d'esser stata per cadere, lo guardò accigliata. Egli disse: «Quest'altra volta ti butto in terra davvero. Ci si provi!» Quando ella voleva, la sua voce diventava dura e aspra. Strillava come una gallina. Allora egli guardò con dispetto, sentendo che doveva obbedire. Per solito, mentre parla, non si sente il suono della voce di chi si ama, o almeno non si potrebbe descrivere. Ella aggiunse: «Vada via!» Egli provava lo stesso effetto di quando siamo sotto l'acqua e non si possono tenere gli occhi aperti, ma rispose: «Ghisola, tu mi dicesti un mese fa che mi volevi bene, non te lo ricordi? Io me ne ricordo, e ti voglio bene!» E rise, terminando con un balbettio. Ghisola lo guardò come se ci si divertisse, e infatti le piacque quel ripiego di inventare una cosa per dirne una vera. Ella rispose: «Lo so, lo so!» Egli, invece di poter seguitare, notò come la tasca del suo grembiule era graziosa, e di lì d'un tratto le tolse il piccolo fazzoletto orlato, alla meglio di stame celeste. «Me lo renda!» Egli, temendo di aver fatto una sciocchezza, glielo rese. «Ti sei bucata con questo dito!» Riuscendo a parlare, non gli parve poco. «Che cosa le importa? Tanto lei non lavora, non fa mai niente!» Gli rispose con superbia burlesca e sfacciata, ma egli la prese sul serio e disse: «Ghisola, se vuoi t'aiuto!» Ella finse di canzonarlo come se non fosse stato capace, e lo allontanò dicendogli che non voleva aiutarla, ma toccarla. Domenico sopraggiunse dal campo. Pietro raccolse in fretta un olivastro che era lì a terra e cominciò a frustare l'uscio della capanna come per uccidere le formiche che lo attraversavano in fila. Ghisola si chinò a prendere a manciate il fieno con movimenti bruschi e rapidi, e voltasi dalla parte del mucchio finì d'empire la cesta. Poi l'alzò per mettersela in spalla, ma non fu capace da sé. Gli ossi dei bracci pareva che le volessero sfondare i gomiti. Allora Pietro l'aiutò prima che il padre potesse vedere. Ghisola, assecondando il movimento di lui, guardava verso Domenico con i suoi occhi acuti e neri, quasi che le palpebre tagliassero come le costole di certi fili d'erba. Ma Pietro arrossì e tremò, perché ella, dinanzi di muovere il passo, gli prese una mano. Rimase sbalordito, con una tale dolcezza che divenne quasi incosciente, pensando: così deve essere. Domenico, toccati i finimenti del cavallo, si erano ancora affibbiati bene, gli gridò: scioglilo e voltalo tu, ripiega la coperta e mettila sul sedile. La bestia non voleva voltare, e lo sterzo delle stanghe restava attraverso. Anche lo sguardo di Toppa, sempre irato, molestava e impacciava Pietro. Tiralo a te! Non aveva più forza, non riusciva ad afferrare bene la briglia e le dita gli entravano nel morso bagnato di bava verdognola e cattiva. Nondimeno fece di tutto, anche perché sapeva che Ghisola, tornata dalla stalla, doveva essere lì. Tremava sempre di più e le zampe del cavallo lo rasentarono, poi lo pestarono. Allora Domenico prese in mano la frusta, andò verso Pietro e gliela alzò sul naso. Lo so io che hai, ma ti fo diventare buono a qualche cosa io. Ghisola si avvicinò al calesse e lo aiutò dopo aver sdrusciato allo spigolo del pozzo uno zoccolo a cui si era attaccato il concio della stalla. Domenico, sempre con la frusta in mano, andò a parlare a Giacco che ascoltava con le braccia penzoloni e i pollici ripiegati tra le dita, le cui vene sollevavano la pelle come lombrici lunghi e fermi sotto la moticcia. Pietro non aveva il coraggio di guardare in volto Ghisola, i cui occhi adesso lo seguivano sempre. Le gambe gli si piegavano con una snervatezza nuova che aumentava la sua confusione simile a una malattia. Ghisola lo aiutò ancora e nel prendere la coperta rossa che era stata stesa sul cavallo, le sue dita lo toccarono. Nel metterla sul sedile, le loro nocche batterono insieme. Ed ambedue sentirono male, ma avrebbero avuto voglia di ridere. Domenico salì sul calesse, sbirciò Pietro e gridò ancora: sbrigati! Cos'hai nel labbro di sotto? Pulisciti! Egli, impaurito, rispose: nulla. Poi pensò che ci fosse il segno delle parole dette a Ghisola, ma subito dopo gli dispiacque di essere stato così sciocco, mentre il cuore gli balzava come per uscirne fuori. Gli assalariati e Giacco salutarono, togliendosi il cappello. Pietro appena ebbe il tempo di far con l'angolo della bocca un piccolo cenno a Ghisola, ma ella era così attenta al padrone che aggrottò in fretta le sopracciglia. Allora Pietro guardò la testa del cavallo che già tirava il calesse fuori dal piazzale mettendosi a trotto appena nella strada. La luce del sole tramontato dietro la montagnola, più rossa che rosea, era sopra Siena. Ma i cipressi sparsi dappertutto in filo, a cerchio, in cima alle colline, gli dettero il rammarico di staccarsi da una cosa immensa. Domenico, guidando, non parlava mai, rispondendo con il capo a coloro che lo salutavano. Sorrideva invece a qualche ragazza che conosceva e, facendo prima rallentare il cavallo, la toccava con la punta della frusta in mezzo del grembiule. E Pietro, con gli occhi socchiusi, si voltava dalla parte opposta, arrossendo. Poi si distraeva guardando le gambe del cavallo e gli pareva che il loro rumore variasse di tempo a seconda delle arie che gli passavano per la mente. Oppure cercava di non sentire quell'odore particolare che avevano gli abiti del padre. Francesco Siciliano ha letto Con gli occhi chiusi di Federico Tozzi, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.